Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Con Casa Italia, per la prima volta da anni, il paese si trova di fronte a un piano pluriennale volto a incentivare la riqualificazione di un patrimonio immobiliare che in parte è obsoleto, di cattiva qualità dal punto di vista energetico e addirittura pericoloso se consideriamo che l'80% degli edifici italiani sono precedenti all'emanazione delle prime norme sismiche. Questa sera allora iniziamo un percorso con il quale a settimane alterne e fino a tutto gennaio faremo il punto su costi e benefici delle principali tecnologie per la riqualificazione energetica, sulla possibilità di integrare la riqualificazione energetica con quella sismica e più in generale sulle opportunità e anche sui limiti che pure questo piano Italia ha secondo l'opinione di vari esperti. Ed è proprio da qui, da una fotografia del progetto Casa Italia che vogliamo partire, fotografia che scattiamo oggi mentre sono in discussione ancora dettagli, alcuni anche abbastanza importanti e che quindi aggiorneremo più avanti, ma insomma le linee generali ormai sono chiare, per cui per farcele spiegare abbiamo pensato di rivolgerci a Virginio Trivella, che è un esponente del comitato Renovate Italy, un comitato impegnato da anni nella sensibilizzazione rispetto a questo tema della riqualificazione edilizia e un po' in generale della rigenerazione urbana. Buonasera Trivella. Buonasera. Senta, voi avete seguito tra l'altro molto da vicino tutto questo processo. Intanto diciamo vanno avanti i vecchi incentivi, possiamo forse partire da qui. Sì. Come tutti gli anni, in occasione della legge di stabilità, che quest'anno si chiama legge di bilancio, si discute sul rinnovo degli incentivi. E come tutti gli anni il governo proporrà la proroga per un anno di tutti gli incentivi attualmente esistenti, sia quelli per le ristrutturazioni edilizie al 50% che quelle per le riqualificazioni energetiche al 65%. Ecco, e parliamo naturalmente di detrazioni fiscali, quindi in pratica non cambia nulla rispetto all'anno scorso. La novità invece è una sorta di regime speciale per i condomini. In che cosa consiste, Trivella? In un nuovo incentivo che è dedicato appunto ai condomini, che sono quella parte di patrimonio che è rimasto molto ai margini dell'applicazione degli ecobonus. Questo per varie ragioni, no? Per esempio, no? I condomini fanno fatica a prendere decisioni, le proprietà frammentate, eccetera, eccetera. E quindi ecco, questa maggiore generosità come si misura? Come si vuole stimolare meglio questo tipo di interventi? Allora, innanzitutto dando stabilità al sistema, per cui per la prima volta abbiamo un incentivo che durerà 5 anni. In secondo luogo con un incremento della quota di costo detraibile, perché dal 65% si passerà al 70% e addirittura al 75% a seconda della virtuosità dell'intervento che si metterà in opera. In terzo luogo si cercherà di risolvere il problema dell'incapienza fiscale, che è uno dei problemi maggiori che impediscono appunto le decisioni condominiali. Essendo queste detrazioni fiscali funzionano se uno deve pagare delle tasse, se non le deve pagare non può beneficiare di questa roba. E quindi? Esatto. Quindi come? Attraverso la possibilità di optare al posto della detrazione sulla dichiarazione dei redditi per i prossimi 10 anni, che appunto per le persone di minor reddito risulterebbe impraticabile, optare per la cessione delle detrazioni ad altri soggetti capienti. Per esempio, chi mi viene a fare questa operazione di riqualificazione lo pago in parte cedendogli, diciamo, questa... Sì, però questo in realtà era già possibile nel 2016, ma non ha avuto successo perché gli stessi operatori che fanno questi interventi sono loro stessi degli incapienti fiscali. Ecco, e qui infatti veniamo a uno dei temi che invece sono ancora da mettere a punto, no? E quei dettagli di cui parlavamo che però non sono secondari. Allora, qui c'è la possibilità di cedere queste detrazioni. La cedibilità è da parte di tutti i soggetti, i proprietari del condominio, gli abitanti del condominio, diciamo, ma a chi possono essere cedute queste detrazioni? L'ideale sarebbe che queste detrazioni fossero cedibili ai soggetti, banche, fondi di investimento, eccetera, disponibili a finanziare gli interventi. In questo modo si risolverebbero tutti i problemi, sia quello dell'incapienza fiscale che quello della disponibilità delle risorse che servono per pagare gli interventi. Però a questo punto mi faccia capire, parliamo di cedere una detrazione fiscale o è necessario trasformare la detrazione in un credito perché il meccanismo funzioni, dal vostro punto di vista? Perché... È proprio questo il punto. Okay. È proprio questo il punto. Bisogna operare questo passaggio logico, passare da detrazione a un vero credito nei confronti dello Stato, che mette a disposizione gli incentivi anziché al cittadino, al soggetto finanziario che gli presta le risorse. Ecco, temo per capirsi che qui sia un problema, nel senso che mi faccia capire, se anche voi avete questa percezione, che il passaggio da una logica di detrazione fiscale al credito comporti qualche problema contabile. È possibile che diventi debito pubblico quello che altrimenti non lo è o cose di questo genere? È un dibattito che è in corso e speriamo con la nostra azione di stimolarlo al fine di arrivare al più presto a una soluzione che sia veramente praticabile di questo problema. Grazie Trivella. Grazie a voi.